Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Da una domenica che ha cambiato notevolmente, pare mio, i rapporti di forze, soprattutto al vertice, ho ricavato personalmente due fatti di segno positivo e altrettanti di segno negativo. Allora, il primo, se parliamo di segno più, è il magnifico primo tempo di San Siro, pieno di bel calcio, di capovolgimenti improvvisi, di gol fatti da una parte oppure di gol sfiorati da una parte e subito fatti dall'altra, insomma di certe fasi di gioco in cui non c'era davvero soluzione di continuità e di emozioni. Il secondo è lo shock che ha provato Miccoli dopo aver segnato quel gol alla squadra della sua città. Lui è leccese, lo saprete, ha anche detto recentemente che il suo sogno è di chiudere la carriera nel Lecce e ieri all'ultimo minuto del primo tempo ha segnato un magnifico gol su punizione, il gol del pareggio a quel punto, nella porta del Lecce con la maglia del Palermo. Poi insomma, all'inizio sembrava una di quelle scene, chiamiamola pure così, di mancata esultanza che ogni tanto si vedono sui campi di gioco e invece poi è stato evidentemente qualcosa di più, tant'è vero che dopo l'intervallo è arrivata una sostituzione per una specie, immagino, di trauma emotivo, no? Che questo giocatore ha avuto. Ma insomma, dato che i calciatori vengono spesso, se non proprio sempre, accusati di o di sensibilità o di cinismo o di recite gratuite, a me quella di ieri di Miccoli non è sembrata affatto gratuita, mi è sembrato un dispiacere sincero di un professionista che per rispetto della maglia e del contratto ha fatto quello che doveva e poi però ha avvertito il peso di questa e la conseguenza di quello che aveva combinato. Le due di segno meno. La prima è certamente la pagnolata di San Siro Nerazzurra. Era il minuto 38 del primo tempo, un'ammonizione a Carjà per un fallo a centrocampo su Menes e questo grande sventolio di fazzoletti bianchi per protestare contro la decisione dell'arbitro da parte del pubblico interista. Si stava giocando, come ho già detto prima, la miglior partita del campionato. Tagliavento, l'arbitro finora, fino a quel punto non aveva ancora sbagliato un fischio e semmai, se proprio uno se l'era risparmiato, era per una trattenuta a Boriello lanciato a rete nei primi minuti della partita, quindi semmai a danno della Roma. Ma al primo pretesto è scattata questa manifestazione premeditata, evidentemente, che il tifo nerazzurro aspettava da un anno, da quell'ultima volta che Tagliavento era stato a San Siro e Mourinho si era regalato il famoso celeberrimo gesto delle manette. Questo secondo me conferma che quando si avvelenano i pozzi, come Mourinho ha fatto per due anni, poi la bonifica è particolarmente lunga. La seconda di queste cose negative è questa frase di Eddie Reia, che adesso andiamo ad ascoltare. No, volevo fare i complimenti a Caressa e Bergomi perché per la linciaggio mediatico ho avuto cosa? No, perché ho sentito veramente, perché ho rivisto la gara e ho sentito anche le valutazioni che hanno fatto su Kozak condannandolo per il gesto che ha fatto. Questo mi dispiace perché il ragazzo sicuramente non meritava questo. Se risentite, io ho rivisto la partita, l'ho rivista e ho sentito anche, poi ho sentito le dichiarazioni anche dopo la gara di qualcuno, qualche dirigente. Questo però non c'entra nulla accuse con accuse pesanti. Credo che Caressa e Bergomi sappiano benissimo difendersi da soli e lo hanno già fatto ieri sera a caldo dopo questo durissimo attacco di Reia. Linciaggio mediatico è una parola molto forte che in genere ultimamente viene usata con altrettanta gratuità da altri personaggi. Nel calcio non ricordo un'espressione così forte, ma soprattutto usata in maniera così gratuita, perché continuo a pensare che Caressa e Bergomi, a proposito del comportamento di Kozak in Milan-Lazio, fossero semmai stati approssimati per difetto, nel senso che se quella sera ci fosse stato in campo un arbitro più in forma, avrebbe certamente cacciato Kozak non per somma di ammonizioni, ma per somma di scorrettezze, e di scorrettezze in qualche caso anche violente. Ricavo invece un'altra sensazione da queste parole di Reia, cioè ricavo un'altra spiegazione, ed è questa. Reia è un bravo allenatore, è uno che sa farsi voler bene dalle sue squadre e ha un discreto fascino mediatico, soprattutto dà l'impressione di una persona seria, ma evidentemente non regge a gioco lungo la pressione nervosa, perché spesso viene espulso dagli arbitri per proteste, per comportamenti riguardosi, e in questo caso a parer mio è nettamente andato al di là di quello che sarebbe stata una polemica che in fondo, messa in altri termini, ci sarebbe anche potuta stare. A proposito della sostituzione tecnica di Miccoli, sentiamo la versione, in assenza della versione dell'interessato, cioè di Fabrizio Miccoli, sentiamo la spiegazione che ne ha dato Delio Rossi. È stata una situazione tecnica. A fine primo tempo l'ho visto un po' fermo e ho deciso di cambiarlo. Per Fabrizio sicuramente la partita con Lecce non è una partita come le altre, ma la sostituzione è stata tecnica, perché se fosse stato così non l'avrei messo in campo. Invece lui ha fatto la sua parte, da quel gran professionista, da quel gran giocatore che è, e poi avevo sue soluzioni in panchina, ho deciso di cambiarlo, come decido tante altre cose. Noi siamo una squadra che ci dobbiamo costruire il nostro futuro partita per partita. Adesso non ha senso vedere la classifica, secondo me non ha senso fino a marzo vederla, e soprattutto fa male parlare in questo momento di Champions League. Beh, mi pare che con il suo consueto garbo Delio Rossi abbia confermato, insomma, no? Parlando di sostituzione tecnica ed evitando quindi di andare troppo nel dettaglio, insomma, Miccoli non era in grado di giocare al meglio il secondo tempo. Anche oggi lei, scrive Massimo Davarese, ha trovato uno spunto contro l'Inter. Lei è davvero un artista. Beh, insomma, cerco di cavarmela, caro Massimo, e si fa quel poco che si può. Se lei questo lo trova uno spunto contro l'Inter, dopo aver detto che ieri ha giocato, ha dato vita al miglior primo tempo di stagione e poi ha vinto alla grande questa partita, insomma, è un'interpretazione sua, non è uno spunto contro l'Inter, evidentemente, lo dico per quelli che fanno fatica ad afferrare, la stragrande maggioranza ha già capito benissimo che cosa intendevo. È che, ripeto, quando si avvelenano i pozzi, poi ora che li disinquini, di tempo ce ne vuole. Mourinho ha avvelenato i pozzi al punto che il primo ritorno di Tagliavento a San Siro, dopo l'arbitraggio perfetto di Inter-Sampdoria dello scorso anno, è equivalsa ad una contestazione gratuita, perché nel più bello di un primo tempo, che è stato il miglior primo tempo del campionato, c'è stata questa buffonata che evidentemente i nostalgici di Mourinho gli dovevano, no? Per via di quelle affinità elettive. Detto che Mourinho stamane è stato votato con la panchina d'oro di Coverciano, come avete sentito anche nel giornale radio, per i successi ottenuti lo scorso anno con l'Inter, e questo è il valore tecnico dell'allenatore. Il valore sportivo educativo è quello di cui vi ho parlato prima, ma che d'altra parte non è nemmeno una novità. Tra poco i vostri interventi in diretta e altre voci da ascoltare, qualche notizia di giornata, alcune statistiche molto interessanti, dopo aver sentito come va sulle strade. Stefano scrive da Udine in un SMS: dopo Del Neri anche Rei è caduto in basso con le sue dichiarazioni. Questo significa che anche noi saggi friulani sotto stress diventiamo comuni mortali. Molto carino questo messaggio. Dunque, le statistiche di Franco Piantanida. Allora, Genoa-Milan, se non è crisi quella del Milan è una crisetta almeno significativa. Dunque, nelle ultime 8 partite ha fatto 13 punti. In questo stesso lasso di tempo il Napoli ne ha fatti 16 e quindi ne ha riguadagnati 3, l'Inter 21 e quindi ne ha riguadagnati 8. In queste 8 giornate l'Inter ha segnato 24 gol, e cioè 3 di media partita, il Milan ne ha segnati 11, di cui 4 in una sola partita con l'Udinese. Questo significa anche, per quel poco che vale, che l'attacco del Milan non è più il migliore del campionato, ma è adesso al terzo posto alla pari della Juve con 40 gol, dietro all'Inter 44 e al Palermo 42. Tra l'altro va notato che il Genoa non è affatto in serie positiva, perché nelle ultime 9 partite ne ha vinta una e poi ha totalizzato 4 pareggi e 4 sconfitte. Inter-Roma si conferma la partita del gol, perché sono stati la bellezza di 94 nelle ultime 27 sfide, nelle ultime 27 confronti diretti, con una media di 3,50 a partita. La Roma va in gol in casa dell'Inter da 13 partite consecutive, ma in questo caso ne ha segnate addirittura 3, ma beccandone 5. È evidente che che il bilancio non può essere positivo. 7 vittorie su 8 per l'Inter di Leonardo dal giorno del suo debutto sulla panchina nerazzurra, e anche questo non mi sembra un dato poco significativo. Alberto è in linea da Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Complimenti per la trasmissione, la seguo con molto molto affetto, per davvero. Però oggi mi sento di rilevarle un appunto. Io tutte le volte che la sento parlare di Lazio, non è la prima volta questa, la sento sempre parlare con un certo, come posso dire, preconcetto nei suoi riguardi. Io posso anche capire che magari ci sia qualche cosa che non è andata nella gestione societaria, però non capisco perché lei tende a giustificare tutte le volte che si venga attaccata alla Lazio i giornalisti. Cosa che su a Milano non ha fatto nessun intento cattivo, scoordinato sì. Poi non capisco come fa un giocatore di Serie A, come può essere le Grottaglie, a intervenire in quel modo. A me mi hanno sempre insegnato che in quel modo si commette gioco pericoloso. No, mi faccia finire. L'intervento no, di rapido, Bonero. Sì, come no, ci mancherebbe. L'intervento di Bonera, un intervento da dietro, e doveva essere ammonito Bonera. E ha preso la gomitata. Su quello posso. Su questo sono d'accordo con lei. Ah, ecco, lei qui è d'accordo, però non l'ha detto. Perché non le dice anche queste cose? Perché non. Dottor Gagliani. Perché non faccio la. Gagliani è geometra, non è dottore, Alberto. Perché non faccio la moviola e me ne guardo bene. Giudico complessivamente quello che si ricava dal campo. Quella sera, ha giocato, come dice lei, forse anche per il fatto che è grezzo e sgraziato, ha giocato un duello rusticano contro l'intero Milan. Ha subito un fallo da Bonera e Bonera è uscito, era un fallo da dietro, poteva anche starci la munizione. Bonera ha subito un trauma, ma per aver commesso fallo lui, e fin qui siamo d'accordo. Dopodiché in almeno 3-4 interventi in elevazione scomposti a gomito largo e spesso affondato, soprattutto con Yepes, secondo me si era meritato una lunga serie di cartellini, che poi le Grottaglie alla fine si inginocchi in maniera strana a metà campo per respingere quel pallone di testa, immagino per essere ben sicuro, ma comunque non fa gioco pericoloso lui, perché l'avversario ha almeno 3 metri e quei 3 metri li compie in maniera da andare a dargli una botta sul naso o in faccia. Comunque io credo che non tanto il Kozak ma l'arbitro di quella sera abbia gravemente sbagliato, perché poi tocca a lui valutare la somma di questi comportamenti. Detto questo, non c'entra nulla evidentemente la Lazio o non la Lazio, o le simpatie o le antipatie, che le garantisco nel mio caso non esistono. C'entra tenere gli occhi aperti e dire quello che uno pensa. Antonio, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, sono d'accordo per quello che riguarda la partita di Milano-Lazio, perché effettivamente ha fatto dei falli molto importanti con le braccia alzate così, con i gomiti, non va bene quando il giocatore, specialmente quelli di dietro, si alza di testa per prendere il pallone. Volevo dire un'altra cosa, io sono tifoso milanista, noi l'anno scorso abbiamo avuto sulla panchina Leonardo, che ha dato una lezione di stile a tutti, sia quando perdeva sia quando portava a casa il risultato. Quest'anno è andato all'Inter, c'era qualcuno che era un po' scettico, sta dando dimostrazione per adesso della propria bravura. Io però temo che, essendo andato in un ambiente come l'Inter, che non è un bel ambiente, io penso che in questo periodo qua ci sia dell'aria avvelenata all'Inter, da tutte le parti, nella tribuna, gli spalti, in panchina, i dirigenti e i giocatori. Sì, no. Io ho l'impressione che a poco trascineranno Leonardo in una perdita di stile. Tutto. Ma io non credo, Antonio, perché mi pare che Leonardo lo stile e l'educazione ce l'abbia abbastanza saldo. Se c'è dell'aria, lei ha detto avvelenata, insomma, se c'è un'aria un po' eccessiva in questo momento in casa Inter, c'è anche in parecchie altre società, e quindi a questo nel calcio italiano bisogna essere abituati. Lei pensi soltanto che, insomma, siamo riusciti a importare ieri sera dalla Spagna una manifestazione di grande eleganza, perché la pagnolada non nasce come contestazione arbitrale, nasce come contestazione nei confronti della tua squadra, cioè la tua squadra sta giocando male, e allora gli spagnoli, non so quando, non so come, sarebbe anche interessante scoprirlo, si sono inventati tanto tempo fa questo sventolio di fazzoletti bianchi per dire: ma guardate come stanno giocando male i nostri, no? Lo trovo una cosa di grande eleganza, fantasia innanzitutto, ma anche di grande eleganza. Noi l'abbiamo importata e siamo riusciti, noi, loro l'hanno importata e sono riusciti a trasformarla non in una, in una manifestazione appunto di insofferenza o di riprovazione nei confronti della squadra, ma dell'arbitro, perché nel dubbio è sempre meglio portarsi avanti. Antonio da Torino, questo è un bel messaggio di cui la ringrazio. Avete mai pensato alla tessera dell'ascoltatore? No, non ci ho mai pensato, ma in effetti una riflessione ogni tanto, e non mi riferisco all'ultimo intervento, potremmo anche provare a farla. Grazie. C'è Villi da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io chiaramente telefono per il gol fantasma di ieri al San Paolo, ma io chiedo a lei, che è un esperto che giudico tra i migliori, ma com'è possibile che ben 50 centimetri dentro la porta c'erano Antonioli e il pallone, e il guardialine non abbia marcato questo gol? Io faccio beneficio di inventario di tutti gli errori possibili e immaginabili. Non ho idea, Villi, ne ho visti. Ma anche questo, no, io le pongo solamente un interrogativo, poi sto zitto e l'ascolto. Pensi, se finiva 0-0, che cosa succedeva tra gli spalti? È successo decine di volte, è successo, e fino a quando non verrà introdotta la tecnologia per i gol non gol o per i gol fantasma, continuerà a succedere. È successo ben di peggio all'Inghilterra, all'ultimo mondiale, senza andare lontano, quando ieri il pallone, tra l'altro, è rimasto in aria, era nettamente dentro, non 50, diciamo 20, facciamo 30 se ci vogliamo rovinare, ma insomma era nettissimamente dentro. È incredibile che l'assistente, che era nella stessa posizione di una telecamera di cui si è visto molte volte il fermo immagine, è incredibile che non l'abbia colto. Ma il pallone almeno è rimasto in aria. Pensi che quando Lampard ha segnato quel gol in Germania e Inghilterra, la palla era anche rimbalzata dentro, e lì sì che era mezzo metro buono. Che ci vuol fare? Pensi se fosse finita 0-0, è andata anche peggio ad altre squadre in passato. Tutto sommato, ieri direi che al Napoli è andata bene da questo punto di vista. Da Milano, Marcello, buongiorno. Buongiorno, Garanzini, è sempre un piacere ascoltarla. Speriamo di meritarmi la tessera dell'ascoltatore. Proviamo. Ho visto il Milan e poi lo spettacolo della sera. Essendo tifoso milanista, ma onesto, vedo veramente una differenza abissale. Il Milan nelle ultime giornate, come diceva lei, ha pareggiato con squadre mediocri o giù di lì, come il Genoa, la Lazio, non sarrabbi l'ascoltatore di prima, e il Lecce. La vedo veramente un po' grigia, vorrei da lei un po' un conforto, perché qui conforto ho paura di no. Ho paura di no, perché se mi chiede un pronostico, io penso che il sorpasso arriverà molto ma molto prima di quello che ci immaginiamo. Poi naturalmente non accadrà, perché non ci becco mai, ma insomma la sensazione che c'è oggi è quella, cioè c'è una squadra che ha delle marce e delle qualità superiori, che è l'Inter che sta inseguendo, e c'è una squadra davanti che ha perso un po' di uomini chiave e non riesce a sostituirli in maniera adeguata. È chiaro che fino a quando c'è Ibrahimovic che respira, adesso io credo che sia poco oltre il respiro, perché mi sembra stanco davvero dopo tutta questa serie di partite che non può permettersi di saltare, perché se esce lui esce il Milan. Però mi sembra che stia cominciando appunto a rifiatare, no? ad avere qualche problema di brillantezza atletica. Da fermo, o quasi come sta giocando adesso, riesce comunque ancora a mettere delle cose sopraffine, come l'assist di ieri per Pato. Però o il Milan ritrova in fretta i suoi Pirlo, i suoi Boateng, i suoi Seedorf, Ambrosini ne ha per un paio di mesi, quindi ci vorrà molto tempo, Nesta, cioè o ritrova gli infortunati e insieme a loro ritrova un po' di gioco, un po' di entusiasmo, o se no mi sembra che il percorso sia abbastanza segnato per quello che riguarda il Milan. Cioè attualmente sono rimaste in tre a lottare per il titolo, no? E questo mi sembra evidente, lo dice la classifica, e sono nell'ordine Milan, Napoli e Inter. Però ho la sensazione che, come sempre accade, chi arriva da dietro in questi casi abbia una birra superiore. Ma si può discutere ancora dopo tutti questi giorni dei falli o meno falli di Kozak? Non lo domandi a me. Avete mai pensato alla testa dell'ascoltatore? Ripeto, questa non è mia, è una splendida battuta, ed è di Antonio da Torino, la ripeto, la rileggo volentieri. Come si spiega l'esclusione di Natale dalle convocazioni di Prandelli? Domanda Giovanni da Brescia. Ma io credo con l'anagrafe, e soltanto con quella, perché è chiaro che Di Natale in questo momento è di scuola italiana, anzi senza probabilmente è il miglior attaccante di cui l'Italia può disporre, però insomma, ha i suoi anni e ha avuto già anche le sue chance in nazionale, ha fatto qualche discreta figura, anche qualche bella figura, ma non ha mai dato la sensazione di poter diventare un giocatore inamovibile dell'Italia e a maggior ragione è difficile puntarci in prospettiva, no? Come è costretto a fare in questo momento Prandelli. Facciamo il secondo intervallo e sentiamo come va sui mercati. Quanti messaggi, difficile tenere dietro a tutti, difficile tenere dietro anche gli ascoltatori che si sono prenotati. Volevo farvi sentire qualche altra voce che ci arriva da questo fine settimana, scegliendole ovviamente tra le più significative, ma prima ce ne sono due già prenotati e in attesa da qualche tempo. Allora, Gianluca, provincia di Pordenone, buongiorno. Buongiorno. Dica. La chiamavo Gianluca, non importa. La chiamavo l'esperimento astronomico dove nasce la pagnolada. E nasce in Spagna dalle corride, quando il pubblico vuole protestare contro il torero che non si comporta bene, soprattutto quando deve uccidere il toro con l'ultimo colpo e non gli viene bene, hanno questa forma di protesta che credo sia dovuta al fatto che nessuno ce l'ha col torero, nel senso che tutti ammirano, ma è una protesta civile. Quindi di derivazione di corrida. Grazie Gianluca, perché anche Luca da Milano ha appena mandato una mail scrivendo: la pagnolada è un'usanza spagnola che è nata per criticare il torero che veniva considerato codardo dal pubblico ad affrontare il toro. Lei dice a finirlo il toro. A parte i dettagli, perché visto che in Spagna hanno deciso di abolirle le corride, sinceramente io non ci lacrimo su, però almeno questa è la derivazione. In ogni caso nel calcio è stata, ripeto, trasportata questa usanza in segno di dispetto per l'atteggiamento della propria squadra e in questo caso e quindi nasce dal dispetto degli spettatori nei confronti del torero, cioè del proprio Beniamino, non certamente dell'arbitro. Giovanni ha chiamato da Milano, buongiorno. Dottor Garanzini Mondi, la chiamo per Genoa-Milan di ieri per rendermi orgoglioso di essere genuano per il fatto del pubblico di ieri, che è stato meraviglioso in merito ai 16 anni passati dalla quella bruttissima giornata che ho vissuto personalmente, e confermo che tutto il pubblico a Genova ieri sia stato impeccabile nel confronto dei tifosi ospiti e soprattutto per il comportamento che ha avuto nei confronti della squadra, che ha manifestato, rispetto a quello che ha appena detto la codardia eccetera, ha manifestato orgoglio, appartenenza alla squadra. Edoardo per primo, perché non dimentichiamo che un portiere ha fatto degli errori quest'anno, ahimè, che ci sono costati cari, e la gradinata sud, la gradinata nord, i distinti, la tribuna gli tributano applausi, come ha detto il nostro allenatore, che non dimentico come un aziendalista, come lui ha definito, ma evidentemente conosce gli uomini e li allena e sa come sono tutta la settimana. Vabbè. E quindi è molto importante. Forza Zena, mi sembra che questo sia. Sia come dire la cifra di questo intervento, perfettamente legittima tra l'altro. Io sono curioso di andare a sentire che cosa ha detto Amauri su questo gol che ha ritrovato ieri, mancando di poco, come mi faceva notare Franco Piantanida, il compleanno, nel senso che il brasiliano non segnava in campionato dal 14 febbraio 2010, tra l'altro al Genoa, in un 3-2 al Genoa. Insomma, per una sola settimana ha mancato il compleanno senza gol, segnandone tra l'altro uno molto ma molto bello e spettacolare. Amauri: sono contento, sicuramente un attaccante a far gol deve essere sempre contento, però dico sinceramente che sono contento di giocare 90 minuti senza aver problemi, cosa che non ho avuto in questo periodo, perciò va bene così. Poi sono riuscito a fare un gol da veramente che ho sempre sognato, un gol rovesciato, e sono riuscito e niente, voglio la cosa fondamentale, voglio continuare a avere questa continuità di gioco, cosa che non ho avuto questo inizio stagione, la cosa fondamentale. No, ancora, ma no, io parlo solo del Parma, la Juve io le parlo dal 30 giugno in poi, oggi sono giocatore del Parma, parlo solo del Parma. Rocco, chiamata la Potenza, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Volevo farle una domanda. Tra Milan, Inter e Napoli, quale delle tre lei vede più candidata allo scudetto? Io vedo l'Inter come spirito e come rosa. A pensare solo che tra un po' incominciano le coppe, ci sarà più stress, più infortuni, più partite giocate. Già adesso il Milan fa fatica. Il Napoli ha una rosa un po' più ristretta di titolari. Quindi l'unica che vedo candidata allo scudetto è l'Inter come spirito, come voglia di vincere. Segna l'unica no, Rocco, l'unica no. Insomma, era la favorita della vigilia. L'acquisto di Ibrahim, riportiamoci ad agosto. Fino a prima del colpo di Ibrahimovic, seguito da quello di Robinho, era la netta e ovvia favorita. Poi quel doppio colpo del Milan ha riequilibrato le forze e poi... insomma, poi però io credo che il Milan si sia giocato, ma insomma il Milan si è giocato, ci sono 14 partite da giocare ancora, con 42 punti il Milan può vincere ancora con 10 punti di vantaggio, ma insomma la situazione che si è creata adesso e cioè quella di sorpasso possibile o addirittura imminente o comunque prevedibile non è tanto merito della rimonta dell'Inter a parer mio, ma demerito del Milan che a un certo punto ha rallentato e può darsi che oltre a qualche infortunio, ma che insomma gli infortuni li hanno avuti tutti, se l'Inter non avesse avuto per prima degli infortuni gravi ci sarebbe ancora Benitez e probabilmente il campionato sarebbe andato se non come gli anni scorsi quasi, invece sì, insomma, si è creata una situazione per cui secondo me il Milan ha perso troppi colpi ultimamente e adesso è nelle condizioni di accusare lui, cioè proprio lui Milan, l'arrivo degli altri. Però sono evidentemente sensazioni che poi magari basta una partita a cambiare. Per esempio, domenica prossima l'Inter ha la trasferta in casa della Juve. Beh, insomma, non è certamente una giornata comoda mentre il Milan gioca col Parma. Però se prendiamo in esame le sei partite che mancano al derby, cioè al confronto diretto, la Juventus in trasferta ce l'hanno tutte e due. Domenica tocca all'Inter, ma dopo quattro giornate toccherà al Milan e il resto degli impegni è decisamente più pesante per il Milan, ripeto, prima del derby, perché ci sono di mezzo per esempio Napoli e Palermo, mentre la Juventus è l'unico ostacolo alto che in queste sei giornate l'Inter si vede proporre dal calendario. Dandogli un'occhiata così al derby, soprattutto se l'Inter dovesse vincere il recupero di Firenze, è difficile che al derby il Milan si presenti ancora davanti all'Inter, ma stiamo sempre parlando di teoria, perché poi bisogna vedere sul pratico, no? Poi bisogna vedere sul campo. Prandelli che è richiesto di un commento sulla panchina d'oro assegnata a Mourinho, ha detto: verdetto giusto, ma io ho votato Spalletti. Tocca a Roberto da Pavia, buongiorno. Buongiorno, voglio parlare anche purtroppo del Milan, non tanto perché se vincerà lo scudetto non lo vince, però per quanto ha fatto secondo me di negativo nei confronti di Leonardo, che meritava di essere riconfermato perché è arrivato in Coppa di Campione con una squadra nettamente inferiore a questa, e poi anche per la distruzione che sta facendo il mio delle immagini. Leonardo aveva un'immagine bellissima, io sono uno che parla da Rivera ancora, figuri, e quindi partendo da Rivera per poi arrivare a Cacà, Maldini, tutte immagini stupende che invidiate da tutto il mondo, penso, e invece Milan ha questa abitudine di rovinare il tutto. Poi adesso ha fatto i saldi di stagione, ha preso tre giocatori che messi insieme fanno un giocatore, mentre non so, Passini, Matri e Matri, Ranocchia, e quindi eccetera. Diciamo questa è la conclusione. Poi anche Cassano con Ronaldinho, io personalmente sono un amante dei fantasisti, penso che Cassano sia un buon giocatore, ma Ronaldinho è un'altra cosa, e in più poteva giocare la Coppa dei Campioni. Grazie. Mi può dire, domanda Damiano da Roma, che differenza c'è tra il fallo su Borriello di Ranocchia e quello di Eto'o su Taddei? Non saprei sinceramente. Allora, intanto il fallo di Ranocchio su Borriello bisogna vedere se c'è ed è probabile. La differenza potrebbe essere questa. Mentre quello di Eto'o su Taddei non c'è sicuro, perché Taddei si è buttato in una maniera invereconda ed era l'ultimo tentativo di inficiare quell'azione una volta visto che Taddei non lo prendeva più. Mi pare di aver sentito ieri sera, anche se l'audio era basso come sempre, non appena finisce la partita, mi sembra di aver ascoltato che anche Ranieri ha ammesso che quello di Taddei era una sceneggiata, non l'ha detto così, ma ha detto, se non ricordo male, una cosa tipo no, qui non c'era niente. Giuseppe ha chiamato da Bologna, buongiorno. Salve Garanzini, buongiorno. Con molto ritardo gli faccio il buon anno perché nel 2011... Grazie, sì, proprio un bell'anno fino adesso, dica. Allora, niente, io volevo intervenire su Inter-Roma, perché ieri sera seguendo qualche trasmissione o anche qualche intervento di qualche ascoltatore che si lamenta su falli, non falli, io direi che dopo una partita del genere, con tutte le occasioni da gol che hanno avuto sia l'Inter che la Roma, perché a mio avviso se avesse vinto la Roma alla fine non ci sarebbe stato nulla da recriminare neanche dall'altra parte, perché veramente è stata una gran bella partita. Io ieri sera non avrei fatto neanche Mobiole o quant'altro, perché quando si vede uno spettacolo del genere, certo, tante Giuseppe, infatti no, io sono d'accordo con lei, non avrei fatto Moviole e non farei nemmeno discorsi del genere il giorno dopo. Cioè, è stata una gran bella partita, magnifica, lei l'ha detto, non sono d'accordo che potesse vincere la Roma, perché la Roma avrebbe potuto vincerla e andare in vantaggio per una mezz'ora, diciamo mezz'ora 35 minuti, poi mi sembra che abbia perso il passo, abbia perso il cambio di marcia e soprattutto nessuno sia stato in grado di assecondare Vucinic e Borriello in serata strepitosa. Soltanto Menez gli ha dato qualche mano, ma quando arrivavano giù i cingolati come Risa e quegli altri, sinceramente non era difficile per l'Inter, nemmeno per un mediocre difensore come Maicon, sto parlando del difensore non dell'attaccante, non era difficile nemmeno per lui arginare la lentezza, no? di questo norvegese, a parer mio sempre più sfiatato. Ultimo intervallo, strade. La rubrica di Nicola Filippone. Vediamo che cosa ha scovato per il 7 febbraio. Sembra ieri. 7 febbraio 1954. A 40 anni, 4 mesi e 9 giorni, Silvio Piola segna la sua ultima rete in Serie A, consentendo al Novara di agganciare sull'1-1 il Milan. Diventa così il calciatore più anziano ad andare a segno nel massimo campionato. Un primato che resisterà fino al 19 maggio 2007, quando il milanista Costa Curta realizzerà un gol su rigore contro l'Udinese a 41 anni e 25 giorni. Con 395 marcature in gare ufficiali, di cui 290 in campionato, Piola rappresenta tuttora il più grande goleador del calcio italiano. Non ha pescato male oggi come data, Il nostro Nicolino Filippone. Luca da Monza domanda: ma come Prandelli ha votato Spalletti? Ma non era stato esonerato a inizio anno? Sì, certo Luca, dopodiché è andato in Russia e ha vinto semplicemente il campionato. E quindi Prandelli, che evidentemente anche per ruolo privilegia il calcio internazionale, anziché Mourinho, che non deve essergli granché simpatico, perché anche Mourinho a sua volta qualcosa di internazionale l'anno scorso ha vinto, ha votato Spalletti. Ma sa com'è il segreto dell'urna? Nel segreto dell'urna si prendono certe decisioni. La differenza è che Prandelli poi questo voto l'ha reso palese. Walter d'Alessandria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Nulla, volevo solo esprimere la mia soddisfazione per quanto riguarda la Juve di queste ultime due partite. Credo che se Del Neri, come penso, sia in grado di incanalare questa rabbia che in queste ultime due partite ha preso la Juve, e ringrazio guardi quel fallo di mano, perché da quel momento è scaldato qualcosa in quella squadra che li ha messi, diciamo, soli contro tutti, e questo per Mourinho l'avrebbe creato lui questo. A noi ci è arrivato dal cielo e io mi auguro che venga mantenuta questa tensione. Noi abbiamo 15 finali e se le giochiamo con rabbia come si deve, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. E poi volevo fare i complimenti per l'acquisto di Matrix. Io è da qualche anno che dico che Matrix è buono, e secondo me, e la mia opinione, Matrix ha molto più talento di Pazzini. E penso che lo dimostrerà. Infatti Prandelli l'ha convocato e sono molto contento per lui. E sono contento anche per Toni, che troverà le motivazioni per finire la carriera bene. Ogni tanto sentire uno juventino ottimista credo che sia un fatto positivo. Non parlo di me, parlo di chi invece, dato che arrivano quasi soltanto più voci critiche, no? nei confronti della Juventus, di come si è mossa sul mercato, di tutto quello che ha fatto, di come stava andando negli ultimi tempi, beh, insomma, un intervento controcorrente, se non altro è originale rispetto a quelli degli ultimi tempi. Ettore ha chiamato da Milano, buongiorno. Dottore, buongiorno. Dica. Innanzitutto complimenti per il distillato di professionalità che lei fornisce ogni giorno, che è sempre gradevole ascoltare. Io sono interista doc, le volevo chiedere un'altra cosa, però cosa ne pensa di quella meravigliosa coppia d'attacco che sono Vucinic e Borriello, che ieri sera sono rimasto impressionato molto molto bene, e non capisco perché Milan abbia ceduto Borriello quest'estate. Mi fermo. Milan ha ceduto Borriello perché era da sacrificare sull'altare di Ibrahimovic, con tutto rispetto per Borriello non mi sembra che finora abbia sbagliato i suoi conti, no? Visto che Ibrahimovic è arrivato, credo, vado a memoria, ma credo sia arrivato a 13 gol e a 9 assist. Se lei mette insieme i punti fruttati che hanno fruttato, 13 gol isolati tra l'altro, mai doppiette, mai triplette, e 9 assist, viene un numero di punti impressionante che sinceramente Borriello non può controbattere, no? con la Roma, pur avendo fatto fin qui abbastanza bene. Ieri sera Borriello e Vucinic erano entrambi in serata di grazia, nonostante Borriello avesse un problema muscolare. Se fossero stati assistiti a dovere da una Roma di tempi migliori, io credo che ieri sera la partita sarebbe finita diversamente. Invece nella Roma di ieri sera soltanto Menezze, non sempre è stato in grado di assecondare questi due giocatori, forse con Cassetti, che se non altro aveva il tempo dell'inserimento, aveva la freschezza. Gli altri non mi è decisamente sembrato, tant'è vero che fino a quando le due punte, soprattutto Vucinic, che secondo me ha giocato una partita, un primo tempo regale addirittura, fino a quando loro due sono stati in grado di controbattere in velocità e di spaventare gli avversari, oltre che di arrivare vicinissimi a segnare altri gol, fino a quando loro due sono in grado di fare questo, c'è stata partita. Quando ha mollato Vucinic e Borriello, il resto della squadra era troppo inferiore all'Inter. Silvio, provincia di Alessandria, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Volevo dirle, dottor, io sono un accanitissimo tifoso del Napoli, volevo dirle, visto che ascolto molto la vostra radio e negli annunci del TG di Radio 24, ma alla voce sport diciamo, si è parlato molto della partita ovviamente di ieri sera e del Milan, ma assolutamente non c'è stato nessun piccolissimo accenno al Napoli. È la congiura, glielo dico prima. È una congiura nordista, no. Non è la prima e non sarà l'ultima, sa com'è. Sì, ma infatti cioè, è ovvio che io non paragono il Napoli a un Inter, assolutamente. Al Milan non lo paragono il Napoli, ci mancherebbe, ma all'Inter assolutamente, perché io sono convintissimo che l'Inter vincerà lo scudetto alla grande. Ma come si fa? Oppure anche del Palermo e dell'Udinese stessa, cioè non si può aprire, oppure ecco, anche nella sua trasmissione nessun accenno a queste squadre qui, a parte il Napoli che lei l'ha accennato. Sì, io provo a dirle per quel che mi compete, per quel pochissimo che mi compete. Il Napoli ieri ha battuto in casa il Cesena per 2-0, è una partita di routine, cioè la notizia di Napoli-Cesena è se il Napoli non vince, se il Napoli vince non è una notizia. Il Milan che viene fermato dal Genoa non è una notizia stratosferica, ma è un risultato che ci sta giocandosi a Marassi, ma in questo momento in cui il Milan sta pareggiando troppo diventa una notizia. Il fatto che l'Inter batta 5-3 la Roma in quella che negli ultimi 4 anni, anzi 5 forse, è stata la sfida scudetto per eccellenza, e torni a vincere in casa contro la Roma credo dopo 5 o 6 anni in campionato in cui non riusciva a battere, parlo di campionato, forse, ma in ogni caso in capo una partita così spettacolare, hanno indotto alcuni colleghi, evidentemente, e anche me, a privilegiare questo genere di cioè, i commenti su queste partite. Se non ci arriva un richiamo dell'ordine dei giornalisti, ci va bene, ecco, da quello che capisco. Pasquale, Palermo, buongiorno. No, da Bari, buongiorno. Bari, chiedo scusa, Pasquale. Bari, sì. Allora, tifosissimo del Milan, e devo fare un paio di considerazioni su questo allenatore, che è il Milan, che per me è il grande problema del Milan. Un allenatore che mi sbaglia tutte le domeniche i campi. Mi toglie Pato per mettermi Cassano, poi mi ritoglie Pato e mi mette Cassano, ieri mi ha tolto Rubinho. Quando dovevano mi ha tolto, mi ha tolto Rubinho per mettere Cassano. Quando mi è tenuto in campo Flannicchi, non ha fatto nulla in fase di copertura e nulla in fase di offensiva. Allora mi teneva Rubinho in campo e mi toglieva Flannicchi, poi mi toglie Flannicchi e mi mette Emanuelson. Ma chi è su Emanuelson? Che in tre partite, quattro passaggi ne ha sbagliati cinque. Ma stiamo scherzando, questo non è un problema. Sì. Pasquale, paura. Se lei lascia l'indirizzo a Rosa al centralino, io le garantisco che la faccio chiamare da Allegri per un ripasso dei fondamentali dei cambi. Nel frattempo ringrazio Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanida in redazione. Un saluto a tutti, un grazie ad alcuni per dei messaggi privati e l'appuntamento a domani. Buongiorno.